dato fanne quella pena incontrar che ti è dovuta. Non più pianto, non più, sangue mi chiede la trace piana. Udisci la rivale all'amante, crudele regina, e la teuzzan zelinda. Zelinda, che il mio dolore, il mio furor la riconosci, tu quella sei che spira il ciel, tu quella, basta, sovvengon tutte le mie tue frodi all'amor mio tradito, e nel tuo sé non lascerò impunito. Piace di l'odio tuo, sfogalo pieno, sfogalo, e te non salvo in questo seno. Resta pur qui fra l'ombre e custodisci l'idea di mie vendette, io parto a maturarle, e di Beatrice parto al mio rivale d'un gran dispetto. Parliam tu dirò, io di fermezza il petto, già libero e disciolto, vengo della città.